Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Come abbiamo visto ieri sera, con il 1° gennaio scorso è entrata in vigore la nuova tariffa elettrica per il settore residenziale e ha un obiettivo, quello di superare l'attuale tariffa progressiva in base alla quale sostanzialmente chi consuma poco riceve un ulteriore sconto e chi consuma tanto paga un ulteriore sovrapprezzo. Degli effetti di questa riforma sulla competitività delle rinnovabili e dell'efficienza energetica in ambito residenziale ci siamo occupati ieri, ma nell'ultimo milleproroghe è presente un emendamento passato fin qui pressoché inosservato, che in buona sostanza estende questa riforma tariffaria agli utenti non domestici, quindi alle industrie. Con quali conseguenze? Beh, ne parliamo con Tommaso Barbetti, che è analista del mercato elettrico, socio di Elements. Buonasera Tommaso. Buonasera Maurizio, a te e a tutti gli ascoltatori. Allora Tommaso, intanto dici un po' meglio, ecco, che cosa dice questo emendamento? Ma Maurizio, questo emendamento in realtà non dice molto, perché si tratta solo di 3 righe in cui si impone all'autorità dell'energia di andare a modificare la struttura degli oneri generali di sistema per tutti gli utenti non domestici, rendendola quanto più simile possibile a quella degli oneri di rete. Che, uscendo diciamo dal linguaggio del gergo, significa spostare buona parte della bolletta elettrica dalla parte variabile alla parte fissa. Tutto questo accade in 3 righe di milleproroghe, che però come valenza strategica hanno molto più valore rispetto a 160 pagine di strategia energetica nazionale. Ecco, che già valeva poco lei. Ecco, allora vediamo bene a questo punto però come è oggi fatta la tariffa elettrica per le imprese e come potrebbe cambiare. Beh Maurizio, la bolletta elettrica di un'azienda è composta da 4 voci. La prima voce è l'acquisto dell'energia. Stiamo parlando di una voce che pesa per circa il 30% del totale della bolletta e che è tutta variabile. Che cosa significa variabile? Mm-hmm. Che è parametrata ai kilowattora o ai megawattora che andiamo a consumare. Consumo il doppio, pago il doppio. La seconda parte sono gli oneri generali del sistema, cioè finanziano una serie di incentivi e sussidi che reggono in piedi il sistema elettrico, tra cui la prima voce è quella delle fonti rinnovabili, pesano anch'essi circa il 30-35% e anch'essi sono integralmente o quasi per il 99,9% variabili, esclusivamente basati sull'euro kilowattora. La terza voce è invece gli oneri di rete. Gli oneri di rete vanno a garantire il funzionamento, a finanziare il funzionamento delle reti di trasmissione e distribuzione. Pesano per il 15-20% e, a differenza delle altre 2 voci, sono per il 40% variabili e per la restante parte, cioè il 60%, fisse, ossia parametrate alla potenza impegnata. Alla potenza del contatore, diciamo. E al punto di prelievo, sia un valore fisso annuo che non dipende neanche da quello, ma esclusivamente dall'esistenza di un punto di prelievo. Ecco, che è la logica del canone. Questa è la struttura attuale, dicevamo, della bolletta. Come diventerebbe per le imprese a questo punto se queste 3 righe vengono poi messe in pratica? Posto che comunque tutti i dati sono variano da utente a utente, se fino ad oggi non prelevare un megawattora dalla rete o anche autoconsumare un megawattora ci portava un risparmio rispetto all'acquisto della rete di circa 100 euro megawattora, domani, se l'autorità dovesse implementare nel modo in cui temiamo la legge milleproroghe, il risparmio passerà da 100 euro megawattora a 40 euro megawattora, quindi si ridurrà significativamente. Quindi saltano tutti i business plan, buona parte dei business plan sulla base dei quali oggi si costruiscono operazioni di efficienza energetica, io temo anche molti impianti fotovoltaici, giusto? È questo il problema, è drammatico. Beh sì, saltano i business plan per i nuovi impianti, temo salterà anche qualche bilancio su gli impianti già realizzati, perché la riforma, essendo una riforma della struttura tariffaria, è intrinsecamente retroattiva, per cui riguarda semplicemente tutti indipendentemente. Ecco, dicevamo quindi, allora fotovoltaico lì che cosa potrebbe succedere? Beh, il fotovoltaico temiamo che sia la vittima sacrificale di questa operazione per la struttura del mondo industriale, dei costi. Temiamo che diventerà veramente difficile reggere un'iniziativa di autoconsumo da un impianto fotovoltaico. I numeri non torneranno più e sarà veramente una battuta d'arresto. Ecco, perché oggi tornavano, giusto o sbagliato che sia, oggi tornavano più che altro proprio per il risparmio che si riusciva ad avere sugli oneri di sistema. Ecco, poi un altro ambito che mi sembra di capire da quello che voi dite potrebbe avere problemi è quello della cogenerazione, no? Io ricordo che la cogenerazione è quella roba per cui uno con un motore a endotermico, una turbina, si produce a casa sua, diciamo, energia elettrica, e tutto il calore di scarto che normalmente viene buttato via lo usa per riscaldarsi, ed è una, diciamo, tecnologia molto efficiente dal punto di vista termodinamico. Dal punto di vista economico, però, cosa potrebbe succedere se si va in questa direzione? Beh, anche qui siamo nell'ambito dell'autoconsumo, per cui siamo su un regime di sofferenza molto elevata anche in questo caso. A differenza del fotovoltaico, per il quale la misura sarà probabilmente esiziale, qui potrebbero venire in soccorso, potrebbe venire in soccorso l'altra riga di ricavo che sta in un bilancio di un impianto di cogenerazione, che è la vendita del calore, che potrebbe consentire... O l'autoconsumo, insomma, del calore... Quando l'impianto è ben progettato, sì, l'iniziativa è ben costruita, potrebbe consentire una sopravvivenza, ma con un danno enorme rispetto allo scenario attuale. In generale l'aumento dei costi fissi a svantaggio, diciamo, di quelli variabili è un problema per l'efficienza energetica, no? Più in generale. Beh sì, direi che anche in questo caso siamo in una categoria in cui si preleva meno megawattora dalla rete, per cui abbiamo un costo fisso e anche un'iniziativa di efficienza energetica va in sofferenza. Va bene, grazie Tommaso Barbetti. Grazie a te, Maurizio.